Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi parlo di libri belli ma utili, e utili soprattutto anche per qualche possibile regalo anche a noi stessi. Il primo di questi libri è dedicato a uno dei sommi geni della civiltà in assoluto e di quella italiana in particolare, cioè Michelangelo, sul quale scrive uno storico del Rinascimento, Giulio Busi. Il suo libro si intitola Michelangelo, mito e solitudine del Rinascimento, è pubblicato da Mondadori, 422 pagine, 25 euro. In realtà il testo del libro e di 230 pagine, e poi c'è un apparato di mostre e di bibliografia. Quest'ultimo però è tutt'altro che noioso, perché è scritta a sua volta quasi come un racconto e ci permette appunto di addentrarci nella sterminata bibliografia michelangiolesca. Il libro è molto godibile e naturalmente tratta della vita di uno dei giganti, come dicevo prima, della cultura mondiale, un autentico archetipo, perché Michelangelo viene definito dall'autore il primo artista dell'età moderna che entra ancora vivo nel mito. Michelangelo fu un personaggio complesso, sfaccettato, molto consapevole della propria grandezza e perciò difficile da catalogare e da comprendere completamente. Un fuggitivo lo definisce Busi, perché Michelangelo, scrive, cercherà di scapparci in questo libro, pagina dopo pagina. Si nasconderà, come faceva nella realtà, dietro i muri posticci levati attorno ai suoi capolavori, scomparirà tra le sue poesie, corrette e ricorrette fino allo stremo, versi tormentati, rigirati, cancellati. Sarà difficile sapere dove sia veramente, cosa lo angusti per chi si infiammi. E Busi ci prova a catturare questo fuggitivo ricorrendo anche ad un espediente grafico, quello di mettere in corsivo un commento alle molte immagini delle opere di Michelangelo che arricchiscono il libro. Ma sentiamo l'autore. Buonasera a Giulio Busi. Buonasera. Giulio Busi, come ho ricordato poco fa agli ascoltatori, lei definisce Michelangelo, almeno il Michelangelo protagonista di questo suo libro, come un fuggitivo. Perché questa definizione? E come mai ha sentito il bisogno di misurarsi di nuovo con una biografia su Michelangelo? C'è qualche cosa di nuovo che si può scoprire nella vita di Michelangelo? Ma sì, fuggitivo perché dopo aver accumulato tanti documenti, averli letti e chiaramente essermi misurato con le opere di Michelangelo, ho avuto l'impressione che mi mancasse sempre qualcosa, cioè che fosse sempre difficile afferrare il personaggio che si nascondeva in qualche modo. Lui si è nascosto in vita per lavorare in pace, sono famose le cosiddette turate, cioè si copriva le opere che stava facendo per non essere disturbato, ma anche nelle sue lettere, nella sua personalità, certe volte nell'iconografia, sfugge. E si crede di averlo capito e poi ci si accorge che invece c'è molto di più da capire. Questa è la sua grandezza, chiaramente. Per un biografo è una croce, perché uno pensa di non esserci, ma che non lo prenderà mai questo personaggio. Diciamo che quello che forse c'è di nuovo è aver tentato, su una base documentaria molto ampia, perché ho ovviamente cercato di tenere presente tutte le fonti, che sono tante, su di lui, e cercare di vederla tutto tondo, cioè non solo il mio non vuole essere un libro di storia dell'arte, anche se chiaramente l'arte c'entra moltissimo, e la poesia che è molto importante nella sua interiorità, nella sua dialogo con se stesso, l'aspetto economico, commerciale, cioè questo Michelangelo fatto di tante parti, forse se le si prendono tutte assieme, se non ci si limita alle specializzazioni settoriali, forse allora sì, questo grande personaggio pieno di contraddizioni risalta perlomeno nella sua interezza. Questo è quello che ho cercato di fare. E lei comincia parlando del rapporto con Lorenzo il Magnifico, sul quale lei stesso ha scritto poco tempo fa una precedente biografia. Sì. Che cosa ha rappresentato questo legame e il clima al quale diede vita Lorenzo il Magnifico? È stato un legame importantissimo, io credo, cioè in realtà è stato Lorenzo che mi ha portato a Michelangelo, e lui nell'ambiente laurenziano ha trovato quello che non aveva in famiglia, quello che in fondo non aveva la scuola del ghirlandaio, ha trovato questa libertà, questo stimolo, questo pensare in grande, diciamo così. Lui era stato in qualche modo fedele a questi anni giovanili, a questo mondo laurenziano, e in qualche modo anche a questa figura che si staglia alla fine della vita di Lorenzo, poi dominerà e poi tragicamente cadrà, che è quella di Savonarola, che comunque appartiene a Firenze laurenziana. Savonarola ha giocato sicuramente un ruolo molto importante nel Michelangelo anche più tardo, mistico, religioso, quindi diciamo che Michelangelo io lo vedo come un personaggio non solo di formazione quattrocentesca, ma proprio di fedeltà laurenziana tutta, in qualche modo tutta la sua vita. Poi lei sottolinea un aspetto: quando quel mondo entra in crisi, Michelangelo scappa, e lei scrive: non è la prima delle fughe che farà. Sì, perché scappa spesso, scappa addirittura anche quando gli viene affidata la difesa, la progettazione delle difese di Firenze durante la Repubblica, e lui dovrebbe essere al suo posto, ma insomma in realtà se ne va. Poi giustificherà queste fughe con apparizioni fantastiche, con voci interiori, però è un dato di fatto che in più di un'occasione viene preso da uno spirito di autoconservazione alla fine. Insomma, lui è anche abbastanza impegnato politicamente, ma sostanzialmente è soprattutto fedele alla propria arte. E quando pensa che la sua vita di artista, la sua missione di artista sia in pericolo, in realtà se ne va, scappa. A proposito di una delle prime opere che lo resero subito celeberrimo, cioè La Pietà, lei dice che Michelangelo può essere considerato l'artista che dice col marmo quello che Dante esprime in versi. Sì, questa pietà che prende, che in qualche modo soffoca di emozione, lui è questo gesto silenzioso della Madonna giovanissima che ha in grembo il proprio figliolo. Appunto, la pietà non è solo un nome così, una definizione astratta dell'opera. Tutto il meccanismo iconografico, tutta la rappresentazione, tutta questa finezza del marmo, questa sfasatura appunto tra questi corpi così in realtà giovani e così belli, esalta questo sentimento di pietà, secondo me. Ecco, davanti, cioè, Michelangelo sfugge sempre, però quando si presenta nella grandezza della sua arte ti impone di fermarti, e lì non sfugge, cioè è talmente autorevole che lo devi ascoltare. Però a proposito di questo, parlando dell'altro grandissimo capolavoro che c'è dalle parti di San Pietro, e cioè gli affreschi della Cappella Sistina, lei dice che bisogna cercare nella Cappella Sistina anche una Contro Sistina di Michelangelo. Che cos'è la Contro Sistina? Sì, è una realtà provvisoria, cioè la fatica, il tormento e l'incertezza, la paura di stare perdendo solo tempo che lo accompagna negli anni di questo lavoro. In realtà poi dopo viene come scompare, come quando lui smonta l'impalcatura, scompare anche questa controsistina di angoscia, di dubbio, di fatica fisica che lui esprime anche in una poesia famosa in cui prende gioco amaramente di se stesso. Cioè, non bisogna limitarsi alla meraviglia, allo stupore, ma bisogna anche, io ho cercato di seguirlo mentre infieri questa enorme opera, lo riempie di tormento, ma di dubbi anche, di paura, cioè paura di stare fallendo in realtà. E invece lei interpreta l'altro capolavoro, Il Giudizio Universale, come un'opera nella quale, la cito, caduta e salita si avvolgono l'uno nell'altra, come spire di un'immane radice. Una lettura particolare questa del Giudizio Universale. Sì, ho cercato, ecco, sull'iconografia di Michelangelo ci sono, chiaramente c'è tutto, il contrario di tutto, ho cercato di in qualche modo di mettere da parte quello che è stato detto, senza volerlo ignorare però, e ricostruire un rapporto visivo con l'opera, diretto, diciamo così, senza quelle che poi in parte sono speculazioni, perché uno pensa che lui abbia voluto dire delle cose, in realtà bisogna guardarlo Michelangelo più, e guardandolo ho notato questo movimento che in realtà salta agli occhi. C'è c'è l'ascesa di chi si salva, ma c'è anche la caduta di chi viene condannato, ed è mi sembra proprio questo moto molto ampio e molto forte, visivamente, che si impone. Ho cercato in quel caso, ma in realtà in tutte le opere che ho commentato, di seguire gli occhi, cioè di essere fedele agli occhi, cosa che Michelangelo sostiene sia importantissimo, cioè sono gli occhi che hanno ragione alla fine. E nel carattere, per così dire, spigoloso di Michelangelo ci fu spazio anche per la ruggine, così la definisce, con Leonardo da Vinci. Che rapporto ci fu fra i due? La Vulgata, insomma, gli aneddoti ci dicono che non si potevano sopportare. Poi, se si guarda il lavoro dell'uno e dell'altro, si vede che si rispettano e si tengono presenti e si influenzano anche, in realtà. Per cui ho cercato di non lasciarmi andare solo all'aneddotica. Chiaramente erano troppo diversi, erano diversissimi l'uno dall'altro. Uno, Leonardo, l'ho definito un gentiluomo in punta di pennello, bello, elegante, mentre Michelangelo, certo, bello non era, e neppure elegante, quindi erano proprio anche fisicamente agli antipodi, però due grandissimi fiorentini che sanno bene quanto valga l'altro, ecco, questo è quello che mi sembra. Grazie a Giulio Busi, autore di Michelangelo, mito e solitudine del Rinascimento. Buona serata. Buona serata, grazie a voi. Michelangelo sarà Michelangelo, però Leonardo si è preso una bella soddisfazione. François is out. Are you sure, François? At 400 million then. At Christie's, $400 million is the bid and the piece is sold. Questa era la cronaca della leggendaria ormai asta che si è svolta il 15 novembre da Christie's a New York, nella quale è stata venduta per $400 milioni più i diritti d'asta un quadro attribuito non da tutti a Leonardo da Vinci, cioè Salvator Mundi, e qualche giorno dopo abbiamo saputo che questo quadro è stato acquistato dal principe della corona araba e depositato presso il nuovo museo Louvre di Abu Dhabi. E vi presento a questo proposito il libro Leonardo da Vinci, pubblicato sempre da Mondadori, 520 pagine, 24 euro, tradotto da Laura Serra e Tullio Cannillo. L'autore Walter Isaacson, un giornalista, è stato anche presidente della CNN, appassionato, cultore e autore di biografie, l'ultima delle quali che ha scritto è su Steve Jobs, che adesso si misura con Leonardo, e proprio da questo libro sarà tratto una versione cinematografica che vedrà Leonardo interpretato da Leonardo DiCaprio. E qui l'autore insiste molto sulla poliedricità del genio leonardesco, grande artista, importante scienziato e lungimirante tecnologo. E adesso ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Gennaio 2017. Scosse di terremoto, neve, gelo in centro Italia. I soccorritori hanno raggiunto l'hotel Rigopiano isolato dalla neve. Maggio 2017. I temi di questa giornata economico-finanziaria, se dovessero essere altri aggiornamenti da San Pietroburgo, ve li daremo in diretta come abbiamo fatto dalle 14 in poi. Per il momento. Luglio 2017. Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio scorso, che è stato un grandissimo protagonista. Ottobre 2017. Sai cosa mi piace della vicenda della Catalogna? Caro David, mi piace il fatto che si stanno scannando sul nulla. Cioè, dovremmo godere di questa situazione. Io infatti godo come un pazzo, si scannassero tra di loro. Rivoluzioni, gente in piazza, fuoco, fiamme, Catalogna, confini blindati. Tu sei un creatore di casino. Stupendo. Anche quest'anno vi abbiamo raccontato il mondo. Tutti i giorni. E continueremo a farlo nel 2018. Con la nostra serietà, autorevolezza, passione e leggerezza. Perché il mondo, oltre ad essere vissuto, va soprattutto capito. Buone feste da Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un'altra idea di libro da regalare ad altri o a noi stessi è quello di Piero Stefani, che ha scritto Il grande racconto della Bibbia, pubblicato al Mulino, 592 pagine, 60 euro, molto ricco di bellissime illustrazioni. È una, la Bibbia è considerata dall'autore una biblioteca racchiusa in un solo volume, così la definisce Stefani, un'opera che resta capitale nella cultura occidentale e che oggi però rischia di diventare una sorta di catalogo di buone intenzioni, o almeno di essere letta come un libro che semplicemente si limita a invocare l'amore e la solidarietà. In realtà la Bibbia è un libro molto più complesso e qui l'autore ce la fa conoscere molto bene attraverso i momenti principali che ci permettono di esaminare come essa abbia contribuito a costruire il rapporto tra l'uomo e il sacro. Protagonista del libro naturalmente è Dio, dalla creazione fino al formarsi della Chiesa cattolica, e ogni capitolo, come dicevo, è ricchissimo di immagini che illustrano le pagine bibliche considerate. Sentiamo da questo libro alcune righe, quelle iniziali, sul significato della creazione. In 11 capitoli la Genesi narra vicende che, misurate con altri parametri, coprirebbero tempi quasi infiniti. Poche pagine sono sufficienti per raccontare l'origine di tutte le cose, il faticoso inizio della civiltà umana, l'abitare in un mondo sempre in procinto di crollare e la constatazione che, nonostante tutto, la vita sulla Terra non si è arrestata. Anzi, è continuata fino a giungere all'antico oggi dei redattori biblici e all'attuale oggi di noi lettori. Al principio la creazione si manifestò come atto capace di separare le acque dalle acque, al fine di far apparire le terre emerse, grembo ospitale per tutti coloro a cui è dato vivere soltanto se c'è aria. Si comprende allora perché l'anticreazione che si riversò sui nostri antichi predecessori assunse la forma di immane rimescolamento delle acque. Il diluvio tutto sommerse, ma non tutto distrusse. Uno scrigno di vita galleggiò sulle acque. La storia si trovò nelle condizioni di ricominciare. Un altro libro che ci conduce alla scoperta di altre fonti della nostra civiltà è quello di Piero Boitani, docente all'Università di Roma, che ha scritto sempre per il Mulino 10 lezioni sui classici, 266 pagine, 16 euro. E l'opera nasce da una serie di conversazioni radiofoniche alla radiotelevisione svizzera e affronta, spiega l'autore, i classici per eccellenza, quelli dell'antichità. Si parte da Omero e poi si trovano le opere che hanno dato voce alla grande ricerca avviata nell'antichità relativamente al tema della giustizia, della storia, della morte, della poesia. Sentiamo da questo libro di Boitani perché leggere i classici. Quasi all'improvviso, nel V secolo avanti Cristo, nascono contemporaneamente in Grecia la storia, la filosofia, la medicina, la democrazia, la tragedia e la giustizia, precedute di poco dalla lirica che sostituisce l'io al noi. Non sempre si tratta di parti indolori. La conoscenza, come testimoniano Prometeo, Edipo e Socrate, nasce nella tragedia, con la sofferenza e la morte. Seguire questi sviluppi, leggere Erodoto e Tucidide, l'Orestea di Eschilo e le lettere di Euripide e quella di Sofocle, misurare l'oltranza di chi dona il fuoco agli uomini e di chi si crede detective e finisce per scoprirsi colpevole, veder morire un uomo mentre parla della morte e dell'immortalità, tutto questo è puntare sui classici. È da quell'uomo che beve tranquillamente il veleno, cui Atene lo ha condannato, che vengono Platone e Aristotele, cioè coloro che dettano l'agenda filosofica dell'Occidente per più di 2000 anni. Un altro libro sui libri, anzi questo è sui romanzi, è quello di Paolo Di Paolo, Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie, pubblicato dalla Terza, 214 pagine, 16 euro. Le 27 storie sono tratte da altrettanti romanzi celeberrimi dell'8 e 900. L'autore presenta il proprio personale canone affettivo e sceglie 27 libri, uno per ogni anno della sua vita da lettore, affrontando anche scelte difficili. Un romanzo, dice infatti l'autore, se funziona, funziona come un viaggio. Un viaggio ci rende migliori o peggiori? Nessuna delle due cose. Diversi, di sicuro, da quando eravamo partiti. Se davvero un viaggio, è possibile rispondere alla domanda del giro del mondo in 80 giorni. Che cosa avete riportato? A volte da un libro riporti con te anche solo una frase, un'intuizione, una cosa che ignoravi. Allora vi propongo dal libro di Di Paolo le apprezzabili ragioni per le quali può essere utile leggere i romanzi. Questo strano gesto, questo gesto inoffensivo e secolare di mettersi a leggere qualcosa come un romanzo. Primo, non rende più intelligenti. Secondo, può fare male. Terzo, non allunga la vita. Quarto, non c'entra con l'essere colti, non direttamente. E però anche... Primo, aiuta a non smettere mai di farsi domande. Secondo, alimenta l'inquietudine che ci tiene vivi. Terzo, permette di non vivere solo il proprio tempo e la propria storia. Quarto, offre quindi la possibilità di non essere solo se stessi. Quinto, rende più intenso il vissuto e forse più misterioso il vivibile. Sesto, ti lascia sempre molte caselle vuote da riempire. E adesso passiamo a due pesi massimi della letteratura, tra l'altro morti nello stesso giorno, e cioè Shakespeare e Cervantes. Il primo, Shakespeare, troviamo nel libro di Neil MacGregor, che è stato direttore della National Gallery di Londra e del British Museum, Il mondo inquieto di Shakespeare. È pubblicato da Delphi, 316 pagine, 22 euro, tradotto da Carlotta Fonzi. L'autore ha scritto una fortunata storia del mondo in 100 getti e segue lo stesso metodo per farci conoscere l'età di Shakespeare. Lo fa con una serie di capitoli molto ben illustrati che ci fanno conoscere molto di quel mondo, di quell'ambiente, e di quell'ambiente naturalmente la descrizione viene seguita anche attraverso diverse citazioni tratte dalle opere di Shakespeare, per concludere il libro con un capitolo finale dedicato al successo globale del bardo. L'altro, il contemporaneo, è Cervantes, sul quale esce adesso uno dei testi più celebri, quello di un grande intellettuale spagnolo, Miguel de Unamuno, che fu uno dei protagonisti della cultura del suo paese, non soltanto tra l'Ottocento e il Novecento. Vita di Don Chisciotte e Sancho e altri scritti sul Chisciotte, è curato da Armando Savignano, che ha tradotto il testo spagnolo, che peraltro viene pubblicato a fronte. Il libro è pubblicato da Bompiani, 890 pagine, 40 euro. E qui troviamo raccolti i vari scritti di Unamuno su Don Chisciotte. Alcuni sono considerati dei classici della critica letteraria. Unamuno riconosceva nel chisciottismo l'autentica filosofia spagnola e vuole, attraverso la rilettura di Don Chisciotte, risvegliare la coscienza della libertà attraverso l'amore per la verità, così dice. Nello scritto che dà il titolo al volume, che è del 1905, Unamuno rilegge capitolo per capitolo il capolavoro di Cervantes, un libro che diventa così anche un appello morale contro il fanatismo, quello di cui sono protagonisti i crociati, i baccellieri, barbieri, preti, canonici, duchi, che solo una linea di lucida follia potrà combattere. Prima di salutarci vi ricordo che a Bologna è in corso una mostra dedicata a René Paresce. La mostra si intitola René Paresce, italiani a Parigi, Campigli, De Chirico, De Pisi, Severino, Tozzi. Si svolge al Museo all'Oratorio di Santa Maria della Vita fino al 25 febbraio ed è curata da Rachele Ferrario. La stessa curatrice pubblica un libro sul tema che si intitola Les Italiennes, sette artisti alla conquista di Parigi, pubblicato da Utet, 170 pagine, 18 euro. I sette li avete già sentiti, ai sei nomi che ho fatto va aggiunto quello di Savinio, cioè il fratello di De Chirico, e l'autrice qua ci parla del clima parigino nel quale vissero questi sette artisti fino al 1936. Fu un gruppo molto significativo, guardato con una certa curiosità dai francesi, che appunto li stimavano, però fino a un certo punto, perché li trattavano più come dei fenomeni curiosi, scrive infatti Ferrario, vengono percepiti dai francesi come degli eccentrici, le loro diatribe scambiate per litigi, un po' come era accaduto ai tempi dei futuristi 16 anni prima. E del resto si spiega appunto questo atteggiamento dei francesi proprio perché i sette non erano buoni, scrive Ferrario. non si erano mai riconosciuti del tutto come gruppo, ognuno convinto ed echirico su tutti di essere migliore dell'altro. E poi non erano solo pittori, conclude l'autrice, ricorda, erano uomini di pensiero, di scrittura. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo questa sera un libro per proseguire nel percorso dell'avvento, dell'attesa del Natale. Il libro di Francesca Mascheroni si intitola Mi leggi una storia di Natale, con le illustrazioni di Fabrizio Zulani. È pubblicato alle Pauline, 104 pagine, 12 euro, sono 25 capitoli, naturalmente, per preparare appunto i ragazzi al Natale con racconti, dice il sottotitolo, con tante curiosità, ricette e lavoretti. Oggi, per esempio, il 17 di dicembre, potremo leggere La leggenda della stella di Natale. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Colleoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.